Allora, buonasera a tutte e grazie di essere venute qui questa sera. Prima di tutto mi sento di ringraziare Margherita per essere qui alla Casa Internazionale delle Donne, anche perché stasera ci parlerà dell'ultima fatica dell'editrice Il Dito e la Luna. Ricordo che Il Dito e la Luna è una editrice storica. Nata nel 95, che ha pubblicato libri di narrativa saggistica a tematica lesbica, femminista e altro, e dando spazio così a chi fino ad allora non ne aveva affatto nell'editoria. Ed ha curato inoltre anche la pubblicazione della rivista Towanda, che è stato un periodico di cultura e politica lesbica. Quella che Il Dito e la Luna presenta oggi è il libro Valerie Solanas, Vita ribelle della donna che ha scritto Scum e, aperta parentesi, sparato a Andy Warhol, scritto da Brianna Fass e tradotto appunto da Margherita Giacobino. Ed è importante questo aver messo tra parentesi e sparato ad Andy Warhol perché, come spero vedremo meglio nel corso di questa presentazione, Valerie è stata molto di più che la donna che ha sparato ad Andy Warhol, insomma. Venendo al libro in questione, mi piacerebbe iniziare comunicando di cosa la lettura di questo libro mi ha fatto pensare e lo faccio perché da vecchia femminista quale sono, ho diciamo una certa dimestichezza e abitudine al partire da sé, quindi non riesco proprio a farne a meno. Allora, quando ho iniziato a leggere il libro, io sapevo già alcune cose riguardanti la vita di Valerie. Ma certo non immaginavo che avesse fatto così tanto e in questo modo. Infatti, una volta finito il libro, ripensando a tutto quello che Valeria aveva fatto, vissuto, subito, pensato, elaborato e realizzato, mi è venuto spontaneo pensare che la mia vita al confronto. Cioè, era quasi banale e parafrasando proprio una frase di Valéry, di una noia sconfinata, sembrava veramente talmente tanto sciocca la mia vita che è stato quasi demoralizzante. Conclusione, non riuscendo ad assegnare a me stessa un giudizio magnanimo per il tipo di vita che avevo fatto, ho ricevuto il primo schiaffo che però, tutto sommato, potremmo idealmente identificare come una delle risposte positive del ripensare a se stessa e su se stessa che in qualche modo proprio Valéry auspicava che le donne facessero, che tutte le donne facessero. Poi mi sono resa conto di un'altra cosa, di un altro passo falso che ho commesso e secondo me questo era ancora più grave dell'aver preso con superficialità la lettura del libro. In sostanza io ho permesso che tutte quelle poche, poi sostanzialmente, informazioni che avevo su Valerie in modo particolare quelle riguardanti gli abusi che lei aveva subito da piccola, condizionassero in parte la comprensione, la valutazione di ciò che leggevo. Voglio dire che alcune manifestazioni che Valéry con così tanta veemenza esprimeva, ma anche alcune sue elaborazioni, per me ero convinta che fossero soltanto una reazione, quasi una conseguenza logica al trauma subito. Non so, per esempio, sapere che a 16 anni praticamente era già madre di due bambini, il fatto di non aver ricevuto neanche il un minimo riconoscimento della violenza che aveva subito, e anzi il proseguo della sua vita è stata costretta a continuarla questa sua vita come se nulla fosse accaduto, e quindi tutto questo per me non poteva aver fatto altro che scatenare, e a buona ragione, tanta rabbia. E invece no, l'errore madornale che io ho commesso è proprio questo: l'aver pensato che tutta questa rabbia che lei esprimeva fosse la reazione a ciò che lei aveva subito. No, perché Valérie non era arrabbiata soltanto per sé, era arrabbiata per tutte le ingiustizie, i soprusi che le donne, tutte le donne, ricevevano. E quindi mi ero posizionata su una strada che non mi stava permettendo di riconoscere che Valérie, aveva in sostanza una spiccata capacità di analisi, e la sua analisi era in grado di portarla ad elaborare un pensiero che metteva a fuoco proprio quei meccanismi sociali che avevano reso possibile tutto quanto lei aveva subito. Ma non soltanto lei, tutte le donne stavano subendo le stesse cose, ed è per questo che era, diciamo, così lungimirante. Aveva messo a fuoco realtà che lei aveva riconosciuto e le stava denunciando. E le sue denunce cominciano ai tempi della scuola, quindi prestissimo. E leggendo il libro ho scoperto che lei, come dire, ha avuto anche una vita abbastanza movimentata, ha percorso in lungo e in largo l'America, ha vissuto dovunque, per strada, a casa di amici, negli hotel, nei villaggi universitari. Insomma, mi sono resa conto che è stato abbastanza poco lineare il suo vissuto, quindi mi viene spontaneo fare la prima domanda a Margherita, e tutte le vicissitudini della sua vita. Mi viene da chiedere in che modo è stato possibile riuscire a costruire tutto il suo percorso, insomma, che tipo di lavoro ha fatto Brianna per rimettere insieme tutto quanto. Che lavoro c'è stato dietro la ricostruzione metodica e sistematica della vita di Madeleine? Che cosa ha fatto per riuscirci? Beh, sicuramente un lavoro lungo, monumentale, metodico, un lavoro appassionante. Io vi leggo qualche frase scritta da lei stessa, perché comunque lei lo spiega molto bene. Dice: la sua per me è la storia più avvincente, raccontata attraverso frammenti sparsi e roba vecchia e buttata via, polverose fanzine come Holy Teeth Clamps e Dwan. Trascrizione di conversazioni di 20 anni fa, ritagli di giornale, riviste d'arte fai da te, copioni di Hollywood, materiali provenienti da un ufficio di medicina legale, frammenti di messaggi di segreteria telefonica, discussioni in appartamenti pullulanti di gatti, foto sfocate, video di YouTube, vecchi ricordi imprecisi, telefonate, documenti mancanti, tirate autocoscienziali di femministe radicali, lettere, cartoline ingiallite, registrazioni di copyright alla Library of Congress, discussioni con la cerchia di Andy Warhol, appunti di incontri in ristoranti che non esistono più, manifesti con il gestaccio del dito medio, opuscoli e newsletter cadute nell'oblio. Questo è il materiale d'archivio su cui ha lavorato lei. E continua: nessuno più di Valérie apprezzava lo scam è come dire, la fogna, la scam e trash sono cose su cui, diciamo, lei gioca molto, e su cui la sua biografa fa un'analisi molto interessante. E ne andava cercando la conoscenza. Lei, che vedeva la verità solo nella fogna e nella spazzatura, nel fango e nella sporcizia, nei pezzi senza valore, rotti e dimenticati, che il mondo ragionevole e ricco lascia dietro di sé. Scam, diceva, è per le puttane, le lesbiche, le criminali, le maniache omicide. Questa biografia della sua vita, che per molti era impensabile, impossibile, Valérie era senza fissa dimora, questo è quello che le hanno detto. Aveva 20 nomi diversi, sua madre ha bruciato tutte le sue cose, era pericolosa. Mette Valérie e la sua scrittura nel più ampio contesto della società che la circondava. La sua storia si situa all'incrocio di tanti elementi, cioè la violenza, il trauma di quella particolare ragazza e donna che recepisce un vissuto di angoscia collettiva, c'è la follia, e qui l'intreccio ci porta dentro e fuori degli orrori della psicosi, la difficoltà di una diagnosi, l'impossibilità della ragione e l'istituzione che rinchiude e libera tanti dei nostri eroi. E c'è l'arte che ci riconduce alla questione del rapporto fra vita e opera e allo scontro fra il freddo e calcolatore Andy e la collerica focosa Valerie. E infine c'è la verità che ci mette di fronte alla merda che dobbiamo mangiare solo per sopravvivere in questo mondo, frase di Valerie, e ci costringe a guardarci intorno e indietro a fare i conti con gli ultimi decenni della nostra storia. Ho voluto leggervi questa, per intero questa frase dell'introduzione perché mi piaceva molto, perché in fondo, come dirlo meglio di lei, l'ha detto lei quello che ha fatto un lavoro di ricostruzione durato molti anni, durato almeno 7-8 anni, con interviste, tantissime interviste. Allora, questa, la vita di Valerie è stata oggetto di ricostruzione da subito, insomma, a parte l'attenzione mediatica che si è concentrata su di lei dopo che ha sparato Andy Warhol, chiaramente, quindi già dopo 2 giorni c'erano articoli di giornale che parlavano della sua vita. Ci sono state tutta una serie di persone che sono interessate a lei. Il primo biografo in quel senso di Valerie Solanas è stato Donny Smith, un bibliotecario che era un suo fan, come dire, aveva trovato questa, aveva detto questa donna così lucida, così strana, così fuori dalle righe, che aveva questa visione, così, e ha cominciato a mettere insieme i documenti. Poi c'è stata Mary Harron che ha lavorato a lungo per il suo film, film uscito nel 96, I Shot Andy Warhol. Il film che è passato anche in Italia, e quindi la Brian Fad dice ringraziamenti, dice: è stato quando poi Mary Harron mi ha messo fra le mani qualche scatolone di documenti che ho capito, beh, sì, comincio ad avere effettivamente i materiali, no? E poi la stessa Brian ha fatto tantissime interviste, nel libro lo vedrete, lei ripercorre veramente, seguendo filoni differenziati, ripercorre tutta la vita di Valerie, che adesso vi sintetizzo molto rapidamente. Comincia nel 36, quando lei nasce in una famiglia che oggi definiremmo disfunzionale, i genitori si separano dopo, quando lei è molto piccola. Sono migranti immigrati di seconda generazione, la famiglia per parte materna sono italiani, per parte paterna sono spagnoli. Sono molto giovani, i suoi genitori si separano presto, la madre si risposa poi, quindi lei ha un patrigno, ma non prima che le bambine, lei ha una sorella un po' più giovane, vengano mandate dai nonni, quindi c'è un'infanzia, c'è un po' di abbandono. Voi capite che, e questa è una cosa per me affascinante, la Brian Fah si è messa a ricostruire la sua vita facendo interviste ovviamente prima di tutto ai suoi familiari. I suoi familiari sono quelli che erano presenti, o i figli, o i nipoti, quelli che erano presenti. E come raccontare una storia così tragica, diciamo pure brutta, perché lei a un certo punto dirà, senza mai insistere, ma dirà che ha subito delle violenze, e comunque è una adolescente che ha avuto 2 gravidanze, insomma 2 figli, uno allevato, la prima allevata dalla sua madre stessa, che l'ha fatta passare per figlia anziché nipote, e il secondo un maschio dato in adozione. Quindi 2 figli che sono stati, insomma, lei magari non li voleva questi figli, molto probabilmente, ma probabilmente, come dicono, commentano i parenti, probabilmente nessuno le ha neanche chiesto veramente la sua opinione. Quindi, diciamo, sono avvenute delle cose su cui la famiglia forse non ha tantissima intenzione di chiarirsi, di discutere, ecco. Quindi la delicatezza nel muoversi in questo contesto, il lavoro che lei ha fatto per raccontarci cose che è molto difficile raccontare, che le sono state raccontate solo per frasi spezzate. E dopodiché Valerie appunto studia, riprende gli studi, è una studente brillante, si laurea in psicologia, comincia un dottorato sempre in psicologia e lo molla perché capisce che, sua dichiarazione, anche se le donne possono ricevere le borse di studio, in realtà la carriera la fanno gli uomini, i soldi per la ricerca vanno agli uomini. Quindi si scontra, diciamo, con il famoso soffitto di cristallo in modo molto abrupto, molto così violento, perché come il suo carattere, butta tutto alle ortiche. Se ne va, gli studi poi li riprenderà, perché poi gironzola per alcuni anni, frequenta altre università e per alcuni anni scompare. C'è questo continuo affiorare e scomparire nella sua vita che effettivamente è difficilissimo. Pensiamo a ricostruire la vita di una persona che per buona parte della sua esistenza è senza fissa dimora, cioè stato civile, residenza, cioè voglio dire documenti, non ci sono... comunque in questi anni lei si mantiene anche con la prostituzione, c'è questo rifiuto del lavoro, il lavoro che a un certo punto lei deve aver contemplato e scartato. La prostituzione che è parte però di un suo sistema, che è quello del, in quanto in qualche modo, battere soldi a chi ne ha. Quindi lei chiede soldi per strada, vende scam quando lo scriverà, vende conversazione. Probabilmente allora per gli uomini non era facile avere una donna che gli desse, insomma, lei vende conversazione, poi resta memorabile questa sua battuta che le scrive in questo articolo: vuoi sapere, per un dollaro ti dico una parolaccia, si avvicina uno, per un dollaro ti dico una parolaccia, e dice sì, ecco il dollaro, e dimmi la parolaccia, uomini. cioè lei fa questo tipo di interventi e anche si prostituisce. E comincia a scrivere quelle che poi sono le cose che noi leggeremo, cioè sostanzialmente Scam e la sua commedia che si chiama Up Your Ass, tradotto in culo a te, traduzione giusta, cioè puntuale, che condivido con l'edizione che è uscita l'anno scorso per Wanda. Comunque, lei cerca di vendere Scam e di vuole pubblicarlo, soprattutto cerca di rappresentare la sua commedia, ed è per questo che entra in contatto con la Factor, con Andy Warhol, che dovrebbe essere uno che nel suo, insomma, che è il re della pop art, è uno che ha in mano i mezzi, no, per arrivare alla popolarità, al successo, che può aprire il successo nella sua visione, il successo anche agli sconosciuti, ma lei è troppo marginale anche per il mondo dei marginali di cui Warhol ama circondarsi. Quindi in sostanza da lì si arriva, e nel frattempo incontra questo editore, Girodiac, che è un editore che ha molto fiuto, è un personaggio piuttosto strampalato, anche losco, con cui fa un contratto, e lì scatta una potente molla, che è il fatto del suo sentirsi strumentalizzata, usata, espropriata. Si sente espropriata e scatta questa paranoia, probabilmente latente, che comunque e si sente non riconosciuta. Lei soffre di una cosa di cui probabilmente soffrono molti artisti, la mancanza di riconoscimento, il sentire che gli altri hanno tutto il potere, lo usano per fare spazio solo a sé, e quindi si arriva per questo a quel giorno, quel 3 giugno 68, in cui lei spara Warhol. Da lì esplode la sua notorietà, e ve l'accenno appena in breve, da lì esplodono altre cose. Primo, la lacerazione nel movimento femminista americano, che si divide per chi pro e contro Valerie, e poi il suo incontro con la psichiatria, che è comunque le prenderà diversi anni della sua vita e che la farà effettivamente precipitare in quella paranoia che poteva essere in lei iniziale o latente, ma che sarà sicuramente effettiva quando esce finalmente dai manicomi. ci sarà un altro breve periodo di riaffioramento, di riemersione nel reale, nel mondo reale, nel mondo anche vivibile, in cui una vita quasi normale, che coincide col suo lavoro a Majority Report, che è una rivista femminista, lavoro volontario, la ripubblicazione di Scam, e poi di nuovo l'inabissarsi e poi andare verso la scomparsa definitiva. Gli ultimi suoi anni sono, come dire, anni di totale, non più che marginalità, proprio di derelizione, anni di vagabondaggio, eccetera. Anche molto difficile da ricostruire, e muore nel 1988 in un albergo per poveri, una casa albergo per poveri a San Francisco. Questa è molto stringatamente la vita di Valerie. Allora, questo è, diciamo, quello che lei ha vissuto, però a me piaceva andare un pochettino più a fondo sui temi importanti che hanno attraversato e che lei ha analizzato, perché la sua vita è stata attraversata da questi temi importanti che però hanno tutti quanti un comune denominatore, cioè la violenza degli uomini sulle donne. E Valérie li ha praticamente catalogati in due tipologie specifiche, la violenza privata e la violenza sociale. La violenza privata è quella che si esplicita all'interno della famiglia e Valérie l'ha conosciuta e l'ha conosciuta benissimo all'interno della propria famiglia. La seconda è quella sociale che diventa poi un veicolo che detta le regole e quindi condiziona. Allora, alla luce, per esempio, tu prima nominavi la Factory di Andy Warhol, no? Allora, Valeria ha attraversato il mondo artistico dell'arte entrando nella Factory di Andy Warhol, che però sostanzialmente ne ha rubato idee, arte e quant'altro. E invece poi anche con i media ha avuto un incontro-scontro quando dal suo amico Geremia è stata convinta a partecipare in quanto lesbica. Nonostante lei non amasse le definizioni, in questo talk show che andava in onda il sabato sera, era TV spazzatura sostanzialmente, no? Però lei ci va probabilmente perché vede questa possibilità, vede questo suo ingresso nei media come una possibilità di dire quello che pensava. Perché lei era una, adesso mi prendo la responsabilità di definirla, cosa che lei non voleva assolutamente che si facesse, ma per me lei era una kamikaze, cioè quando io capitava l'opportunità di dire quello che pensava, lei andava avanti come un treno, andava ed era convinta che andando in questa trasmissione avrebbe potuto dire la sua. In Sì. realtà invece è stato Sì, a uno volte lei sfacelo. si ha l'impressione che lei non misuri le sue forze, che veramente vada a schiantarsi contro un muro. Lei si definiva, vabbè, lei si definiva una scrittrice, tanto per cominciare lei si è sempre definita una scrittrice, un'altra definizione che ha dato di sé è stata sono una provocatrice sociale. E questo è vero perché lei ha cercato proprio di lanciare Scam non solo come oggetto d'arte, testo artistico, letterario, ma proprio come realtà sociale, consapevolezza. E, comunque, diciamo che il suo incontro con i media è stato tragico, sì. Da un lato, lei è stata invitata a un certo punto tramite un amico che aveva conoscenza, un giovane amico. Che aveva conoscenze nell'ambiente della televisione, è stata invitata in questo show. Questo Alan Bark era uno che oggi forse lavorerebbe in una rete locale della Lega, non so, per dirvi La tipologia, ecco. la tipologia, e che soleva invitare gente anche per prenderla in giro, cioè invitare ridere, cioè provocare i suoi ospiti, ridicolizzare, e usava questo espediente di far sentire la voce di un ruggito registrato di un leone, come dire adesso, no? Questo, Vieni ecco, fagocitata da vieni questo. mangiato. E a un certo punto questo suo amico le dice che questo Alan Bark cercava una lesbica, cioè, siamo a metà degli anni 60. Sta appena emergendo il movimento femminista, si parla di cose che prima non si sono mai dette. Lei vive nel village, nel Greenwich Village, che è un luogo molto trasgressivo, in cui diciamo, i personaggi alternativi sono all'ordine del giorno. Lei si presenta, lui comincia a provocarla in maniera abbastanza pesante, lei cerca di parlare dei diritti delle donne e di come le donne abbiano cercato di emanciparsi, eccetera, eccetera, e lui la interrompe dicendo le cose tipo cosa c'è che in te che non va, non hai mai trovato il tipo giusto, cose del genere. Allora, a un certo punto si perde la pazienza E lo rincorre nello Iemena, studio. Iemena, come si suol dire, si dice a Diciamo Roma, che lui cioè si è salvato arrampicandosi sul lui sipario, insomma perché ci sennò. arriva una vera e propria colluttazione, perché lei, cioè, lei questa violenza terrificante dell'essere stata chiamata a parlare del non poter parlare, del non essere nel permesso di parlare, a un certo punto non ce la fa più e lo rincorre. C'è una scena un po' anche comica, ma anche molto pesante, alla fine della quale lei viene buttata fuori. Poi lei cerca, lei arriva alla Factory, che è questo luogo dove Warhol si circonda di freaks, di persone strane, e a cui concede il loro quarto d'ora di notorietà, facendo di loro delle superstar, che Valerie chiamava le stupid star, perché ne coglie subito l'aspetto anche fatuo, così modaiolo, e però le superstar di Warhol magari sono anche dei tossici, sono anche dei travestiti, ma non ci sono altre come lei, non, lei è l'unica così marginale, così strana, e le donne in particolare che circondano Warhol tendono a essere donne belle e ricche, che magari hanno atteggiamenti appunto molto outré, molto alternativi, ma certamente non si vestono come faceva lei, perché bisogna chiarire che lei si definiva lesbica fin dal college, però in realtà non si definiva, cioè si definiva lesbica in quanto doveva in qualche modo provocare, ma poi quando le definivano gli altri diceva no, io non sono lesbica, riteneva un insulto ancora peggiore essere definita eterosessuale, quindi lei rifuggiva veramente, però lei si vestiva in maniera, quello che per gli americani era allora la bull dye, che cioè la lesbica mascolina, si vestiva in modo molto poco femminile, che stiamo parlando di un'epoca in cui ancora le donne in pantaloni portava sempre un cappello in testa, aveva cosa da marinaio, un cappello, un baschetto, una cosa era tutto fuorché femminile, in un'epoca in cui gli stereotipi di genere anche nell'atteggiamento, nell'abbigliamento, anche pur con l'emergente femminismo, ma erano ancora molto forti, e d'altra parte le femministe di cosa venivano accusate? Di essere lesbiche, nel momento in cui quindi lì parliamo della Factory, lei vive un po' questo rapporto con Andy, che in cui c'è una parte di comprensione, probabilmente anche di simpatia, e però insomma lui tutto sommato è molto padrone di quella situazione, lui è molto padre padrone, anche se trasmette un'immagine che non è assolutamente quella del maschio tradizionale, questa immagine di uomo con i suoi capelli argente e assolutamente non macio, il contrario, anche se lui lancia una cultura gay, però lui è il centro, il polo di attrazione, è circondato da alcuni factotum, che sono uomini, che gestisce il potere. In sostanza lei si sente, come dire, è ai margini e non riesce mai a lei chiedeva alle persone che avevano, lei chiedeva e chiede anche a lui, e lui sembra per un certo cosa chiede a lui? Uno spazio, riconoscimento, spazio di parola. Lui sembra volerglielo concedere, poi a un certo punto non glielo concede, quindi questo succede. Dove trova un po'... Andy Warhol però fa anche un'altra cosa molto grave, perché nelle conversazioni private che avevano tra di loro, cioè lui amava molto parlare con Valerie, si incontravano spesso al bar, molte delle cose che Valerie esternava in quel contesto lui le riportava nelle sue performance, sì, spacciandole per proprie. Usava, le rubava, cioè sì, sì, lui... non riconosceva i contributi degli altri, era abituato a farlo con queste persone che in qualche modo glielo facevano fare. E quindi Valerie si trova delle sue battute, delle cose da lei dette, delle sue idee, perché lei era una miniera di idee, chiaramente, la sua visione del mondo, non stiamo parlando ancora di Scam, presumiamo che voi l'abbiate letto, ma insomma, se volete ne parliamo, ma insomma, la sua visione del mondo, che è una visione di critica radicale alla società, è una visione molto spietata, molto anche ironica, molto divertente, molto tagliente, e una critica globale, E quindi lei diceva delle cose molto spinte che a lui piacevano. Per esempio, il titolo della commedia Up Your Ass in culo a te l'aveva conquistato. Poi, quando ha letto la commedia, lui forse l'avrebbe anche messa in scena, ma magari. Però non l'ha mai fatto. E quella invece è stato il motivo per il quale lei aveva cercato in tutti i modi di entrare in contatto con Andy Warhol, proprio perché sperava che lui mettesse in scena la sua commedia, e lui non l'ha mai fatto, tra le altre cose. Un altro aspetto che a me piace prendere in considerazione è, siccome prima hai parlato del femminismo, no? Diciamo che dopo che Valérie ha sparato ad Andy Warhol e c'è stato tutto il macchinone mediatico che l'ha resa famosa, tra virgolette, diciamo che il movimento delle donne statunitense si è un po' diviso a metà. Una parte la voleva sostenere, l'altra parte invece non la considerava proprio. Diciamo che Valérie Solanas invece di fatto non approvava nell'una né l'altra parte, perché lei voleva avere e continuare ad avere il diritto di essere se stessa e non voleva diventare la portavoce di nessuno. Alla luce di questo, come per esempio, qui alla Casa Internazionale delle Donne c'è il CAM manifesto, perché quando dopo l'avanzamento mediatico che l'ha resa famosa, tra virgolette, questo manifesto CAM ha cominciato ad essere tradotto in diverse lingue. E quando lei si è resa conto che qui in Italia era stato tradotto anche in italiano, ha scritto a Edda Billi, che ce l'aveva, perché era ossessionata dal fatto che quello che andava in giro doveva necessariamente essere quello che lei aveva scritto, non poteva essere interpretato, perché la parola si scuma, la poteva dire solo lei. E quindi ha scritto, e questa conversazione è stata chiaramente molto lunga, perché non è che c'è stava internet, certo, o WhatsApp, capito? Andiamo a forza di lettere, capito? Per cui ha scritto a Edda Billi, e per essere sicura che la traduzione fosse assolutamente conforme a quello che lei aveva scritto, gli ha mandato il manifesto SCAM autografato, e sta qui ad Archivia. Ok? Allora, alla luce di tutto questo, come si rapportava con le donne in generale, ma soprattutto con le femministe, vista questa sua assoluta rivendicazione dell'essere se stessa? Sì, beh, questo è uno degli argomenti molto interessanti della vita di Solanas. Nel momento in cui lei viene arrestata ed esplode sui giornali, immediatamente mette in moto un ciclone nel femminismo americano. E il femminismo, la NAO era stata fondata da un paio d'anni, esisteva da 2 anni, e già c'erano delle discordie all'interno, e quindi c'era la parte, diciamo, di Betty Friedan, che stava per, cioè che rappresentava questo femminismo liberal, questo femminismo più per bene, più rivendicazionista, che sostanzialmente anche bianco di classe media, insomma, che portavoce di queste istanze, rispettabile. Quello che la Brian Fine, un bellissimo articolo che ci ha mandato, che pubblicheremo nel nostro libro dal titolo Solanas Bon Amour, che raccoglierà i contributi di chi ha partecipato alla nostra call, ci ha mandato. Comunque lei parla della politica della rispettabilità del femminismo e di come Solanas sia importante per ricordarci che questa politica ha molti limiti. Quindi da un lato c'erano queste che volevano essere rispettabili, quindi non volevano avere niente a che fare con una lesbica potenziale assassina, una lesbica criminale. E dall'altra parte c'erano le radicali, le quali invece vedevano in lei un esponente, una rappresentante della rabbia di tutte le donne, anche perché con Scam aveva circolato, stava circolando da un po' quando lei spara. Quindi il giorno dopo si incontrano sui gradini del tribunale T. Grace Atkinson, che era un esponente del femminismo radicale americano, e Florence Kennedy, che era un'avvocata nera dei diritti civili, una donna molto tosta nota per, perché prendeva le difese, no, soprattutto dei neri quando venivano accusati, quindi una donna che interviene laddove c'è un appartenente a una minoranza che viene accusato, che si trova davanti alla legge della maggioranza. Si incontrano queste due e le scrivono e vogliono occuparsi assolutamente, vogliono difenderla. L'atteggiamento di Valerie è fin dall'inizio, all'inizio, cioè lei è interessata a conoscerle, ma rifiuta chiaramente la difesa, non vuole che nessuno parli per lei. Questa è una costante che lei avrà sempre. Lei vuole parlare in prima persona, è proprio adamantina in questa sua certezza, non vuole che qualcuno prenda la parola per lei. Quindi rifiuta la difesa, accetterà la presenza di Florence Kennedy come consigliera, non come avvocata. Con T. Grace le cose sono molto più complesse. Poi a un certo punto Florence Kennedy le dice: tu mi stai prendendo, tu mi stai insultando, e dopo un po' se ne va. Dice: tu mi fai stare, io sto perdendo tempo con te. L'aiuta per un periodo e poi se ne va. Cioè, di fronte a un rifiuto lei se ne va. T. Grace resiste molto di più, perché lì entra in gioco un elemento, come dire, anche affettivo. Io vedo in te la rabbia delle donne, vedo in te la mia causa, vedo in te la mia oppressione, vedo in te anche la mia eroe, in un certo senso. E quindi in qualche modo voleva stabilire un rapporto diverso, non era così pragmatico, erano in gioco livelli simbolici molto potenti. E lì le cose vanno a scatafascio, nel senso che lei non accetta, non tollera, e per lei queste donne si rivelano quello che lei di cui parla in Scandale, figlie di papà, cioè sono delle donne tutto sommato ancora troppo inserite in un sistema di parola maschile per essere no? Per poterci avere a che fare. Quindi si instaura una dinamica strana, una dinamica in cui lei cerca di riprendere contatti, tutto sommato a volte vorrebbe, però poi si sente da un lato respinta di fronte alla loro essere, insomma, molto meno marginali di lei, e dall'altra anche lì scatta la paura dell'essere tutelata, interpretata, spossessata, e lei ha molta paura di questo. C'è, diciamolo pure, c'è una contraddizione, perché Valerie era molto brillante, era una specie di genio, era sicuramente un po' matta ma molto geniale, e era piena di contraddizioni. Le sue contraddizioni ci danno molto da pensare. Una contraddizione di base della sua vita è che lei voleva essere ascoltata, come vogliono probabilmente tutti gli artisti, vogliono avere ascolto, attenzione, spazio pubblico. Nello stesso tempo appare completamente incapace di operare mediazioni tra sé e gli altri, se non nei suoi stessi termini, e di aderire a qualunque gruppo. Appare incapace, lo dico, scusate, come anche, cioè, faccio riferimento a me stessa: nel momento in cui tu produci qualcosa che poi gli altri leggono, tu devi essere consapevole che gli altri se ne impadroniranno e magari te lo renderanno in maniera del tutto diversa, lo faranno loro e poi diranno: oh cavolo, ma l'ho scritto io quel libro lì che tu hai letto? No, forse no. Lei andava giù di testa di fronte a questo, era una cosa che... Quindi c'è questa contraddizione di base che lei non riesce ad accettare. E comunque poi il suo rapporto con le donne, anche al di fuori del movimento, è molto travagliato. Lei ha anche delle storie, anche delle amicizie, ma tende a metterla un po' su quello che alcune descrivono, un tipo di rapporto sadomaso, vale a dire, lei parte in maniera estremamente aggressiva. Se l'altra reagisce e in qualche modo si dimostra capace di sostenere l'attacco, deviare l'attacco, allora magari si fanno amiche, come dire. Normalmente le donne non rispondono così. Le donne, di fronte all'aggressione, all'insulto di un'altra donna, si offendono, diventano, non so, manifestano altre diverse... Magari oggi sarebbe più contenta, cioè con le ragazze di oggi che sono un po'... con la cultura, una certa cultura sguaiata di oggi, non so se come si troverebbe, forse più a suo agio. E comunque, a parte questa cosa, lei ha questa dinamica importante con le donne che la blocca, per cui... effettivamente è anche lì ostica nel farne. Noi dobbiamo considerarla per quello che ha detto, no? E dobbiamo considerare che lei di persona sarebbe stata molto difficile da gestire. Allora, c'è un altro aspetto che mi preme sottolineare, no? Se ripartiamo per un attimo a quando Valeria ha sparato ad Andy Warhol e tutta l'essere diventata improvvisamente famosa, no? Però lei aveva una totale incapacità di scendere a compromessi in ogni aspetto della sua vita, ha sempre avuto questa abitudine e di non arretrare neanche di un passo. Infatti lei non ha mai rinnegato il fatto di aver sparato ad Andy Warhol, anzi forse avrà pure pensato peccato che l'ho mancato. Non lei ha dichiarato che il suo unico rimorso era quello di non essersi esercitata al trasferimento. Esatto, appunto. Il problema è stato che poi c'è stato un poi che è stato devastante, pesantissimo e grande come una casa, perché lei, che non amava essere etichettata, è stata definita socialmente pericolosa. Socialmente pericolosa, poco compresa, quindi proprio perché poco compresa, da rinchiudere. E questo l'ha fatta entrare negli istituti psichiatrici, talmente tanto pericolosa da far paura. E come personaggio che metteva timore doveva essere rinchiusa. Sì. Che cosa ha significato per lei entrare in queste strutture psichiatriche dove la violenza di genere veniva camuffata a cura? Consideriamo pure che all'interno degli istituti psichiatrici di allora veniva praticata quasi come prassi l'isterectomia, ad esempio. No? Allora, che cosa ha significato questo suo entrare e uscire nella struttura pubblica psichiatrica? Sì, come soprattutto, lei... scusa, un aspetto che... Sì, allora, all'epoca andava per la maggiore la teoria freudiana che doveva essere indistintamente applicata a tutte le donne, che era l'invidia del pene. Lei a questa teoria aveva opposto l'invidia della vagina. Certo, lei l'aveva scritto in Scam, questa era apposta. Una cosa che aveva già... Lei aveva già dato una sua visione estremamente lucida e coerente di tutta una serie di cose. Lei si sente costantemente, e lo è, il suo sentirsi costantemente è basato anche sui fatti, lo è soppressa, negata, cioè, e lei è una voce che parla da una profondità unica, è una voce unica, dice delle verità che il suo mondo non è in grado di accettare. Lei viene costantemente negata e soppressa. Cosa succede? Che nel momento in cui lei spara a Andy Warhol, si crea anche, c'è anche, come dire, lei entra nelle griglie della psichiatria dell'epoca e di quelle che sono la burocrazia penitenziaria, punitiva dell'epoca. Allora, nel momento in cui lei ha sparato a un uomo con cui non aveva una storia d'amore, non si capisce perché abbia sparato, lei dichiara: gli ho sparato perché aveva troppo controllo sulla mia vita. E viene considerata una pazza. Cioè non è previsto che una donna spari per motivi che non siano di passionali, ecco, no? Mm-hmm. In effetti sono motivi passionali, lei era appassionatamente arrabbiata, ecco. Era arrabbiata perché veniva, si stava lei stessa fissando su Andy Warhol e su quello che Andy Warhol sembrava poterle dare o averle promesso, e su tutto il potere che lui aveva e su tutto lo spazio che lui aveva e che a lei non veniva concesso, e sulle bugie che lui diceva e sulla verità che lei non poteva dire. Quindi immediatamente lei entra in questo meccanismo che, se è sana di mente, può essere processata, se non è sana di mente viene messa in manicomio. Le prime perizie che vengono fatte dicono che lei sana di mente non è. Poi lei viene sottoposta a dei test psicologici, prima con una dottoressa e poi con due medici, soprattutto con questa dottoressa che si chiama Ruth Cooper. Si crea anche un certo feeling, no? Quello che viene fuori da questi test è che lei appare, innanzitutto viene giudicata, viene testata la sua intelligenza e il referto riporta che lei ha un'intelligenza assolutamente superiore, con un quoziente intellettivo che, secondo quei parametri, che la colloca in una... Superiore alla media. Molto superiore alla media, che sta proprio nel... ed è lucida e orientata in tutto, tranne che in alcune sue visioni del sociale, per cui sulle quali è pazza. È chiaro che cosa dicono questi test, cioè nel momento in cui lei enuncia che per lei la società è fatta in un certo modo, non può essere che pazza, no? Enuncia certo. Che i rapporti di potere sono certe cose, è follia. Le viene messa una diagnosi di schizofrenia con tendenze paranoiche e potenziale acting out, cioè insomma praticamente può fare del male. Lei tanto dice, più che aveva appena sparato a Andy Warhol, sì, aveva sparato. Era a lei questo fatto che poteva fare del male è una cosa che lei nella sua mente insomma se la gioca, e infatti quando lei uscirà scriverà una serie di lettere minatorie a della gente che ritiene colpevole e che in qualche modo dicendo io quello che ho fatto lo posso anche rifare. Quindi lei gioca molto su questa cosa e per questo tornerà dentro. E lei, la sua paranoia che la fanno mettere dentro, che questi si accordano con l'autorità, è totalmente reale, perché in maniera anche non assolutamente ufficiosa e non legale è proprio così. Cioè quelli a cui lei scrive le terminatorie, passando dal perdere le scorciatoie, la fanno rimettere dentro, cioè c'è un sistema di complicità, la complicità del potere, la complicità del patriarcato, la complicità che comunque è tutto coalizzato contro di lei. Quindi lei è paranoica, però la sua paranoia ha delle basi reali. Comunque la sua paranoia poi esplode dopo, cioè se lei prima poteva avere un germe, quando esce proprio la pianta è cresciuta, nel senso che lei dà sintomi, espone sintomi paranoici abbastanza, e appunto sul fatto del lì in questi posti dove sta la Brian Fa ci racconta un po' che cosa succedeva in questi vari ospedali, Mettiawan, il Bellevue tristemente famoso, ci sono anche dei romanzi che parlano del Bellevue, cioè voglio dire è un luogo tristemente famoso nella cronaca e nella letteratura, dove le persone, in questo caso le donne degenti, pazienti, cioè prigioniere insomma, potevano venire picchiate, potevano venire private di cibo, messe in isolamento, a volte uccise, cioè sono le morti che non vengono giustificate, e sottoposte a operazioni, interventi chirurgici, anche sperimentali. Quindi lei uscirà dicendo che le avevano fatto un'isterectomia. Lei dichiara, come non parla mai delle sue gravidanze, tranne con quello che sarà il suo compagno per alcuni anni, anche di questa isterectomia ne parla invece, ma in tono molto... fa parte un po' della sua negazione del corpo, perché altrimenti, diciamo, secondo me è una sua strategia per sopportare, no? per non schiantarsi contro. Ne parla, ma in realtà in che cosa la trasforma? Lei sostiene che le hanno messo una cimice nell'utero per controllarla, e quindi comincia a vedere questo grandioso complotto intessuto attorno a lei, che non è del tutto falso. E si immagina questa entità che lei chiama The Mob, che io ho tradotto la mala, perché non è la mafia, chiaramente non è la mafia, per noi la mafia è una certa... The Mob è la malavita, quelli della... La mala per lei è costituita da un certo numero di uomini che fanno parte dei media, cioè sono giornalisti, sono gente che fa opinione, sono gente che è editor di Playboy... Individua queste persone che sono quelli a cui forse lei avrebbe chiesto in altri momenti uno spazio di pubblicazione, uno spazio di ascolto, e che comunque sono quelli che hanno, secondo lei, in mano determinati spazi che a lei sono quelli che la sopprimono. Poi da lì la sua mente ogni tanto delira anche un po', e nella mala vengono inquadrati, insomma, si inventa dei personaggi, e è anche una performer. Solanas è anche una performer, è una che mette in scena la sua vita e mette in scena il suo pensiero, e penso che avesse anche una forma di godimento nello scrivere queste lettere, fare queste. E quindi vive questa sua paranoia. D'altra parte, questa mala, in effetti, alcuni questi, quelli che lei tiene nel mirino più da vicino sono effettivamente... basta che facciano una telefonata e lei torna dentro, quindi non aveva tutti i torti. Sì, no, Io mi viene da pensare che l'essere così avanti, no? Nell'analisi della società patriarcale e il non riuscire a sfangarla in nessun modo, poi alla fine logora, no? Però questo suo essere così, così visionaria, cioè lei ha avuto la capacità di vedere mentre il mondo procede per la sua strada e ti rendi conto che c'è solo quella strada da percorrere, lei riesce, da visionaria qual è, ad ipotizzare una strada diversa da seguire, e questo è rivoluzionario. Valérie Solanas è una combattente, Valérie Solanas è una visionaria, Valérie Solanas è una rivoluzionaria, Valérie Solanas è una donna che ha osato sfidare il sistema, e il sistema ha reagito devastandola. Sì, sì, sì, esattamente. Forse aveva ragione Solanas a non voler essere etichettata, perché io prima l'ho classificata come una kamikaze. In realtà i kamikaze usano la dinamite, no? Fanno esplodere il qui e l'ora. Valérie non era una violenta e usava le parole, e le parole aprono la mente, ti fanno vedere altro, ed è questa la grandezza di Solanas. Poi Solanas, aperta parentesi, avrà pure sparato ad Andy Warhol, però poi chiudiamola, porca miseria, sta parentesi, perché non è l'unica cosa che ha fatto, è altro. Che gli è venuto male, però, giusto? Esatto. Noi avremmo concluso, se avete domande. No, potremmo andare avanti, sì, ma no, diteci qualcosa voi. No, io voglio dire che è un libro che è stato molto bello da tradurre, molto interessante, che il lavoro di Brian Fay è molto articolato e sottile, il modo in cui lei si muove, molto, molto rispettoso e attento, e è assolutamente leggibile, ecco. Lei ha fatto veramente 1 milione di interviste e quindi ci mostra anche poi gli aspetti quotidiani, no? Ci mostra come della sua vita, proprio il quotidiano, i momenti anche di gioia. Scusa, tu mi avevi previsto una domanda sul rapporto di Valérie con gli uomini, sì. E io me l'ero preparata a stare No, allora te la faccio per bene, come l'avevo preparata. Allora, prima tu hai parlato del suo rapporto con le donne, e diciamo che verrebbe spontaneo a questo punto domandare, e con gli uomini, che tipo di rapporto ci aveva? Ecco. Però il problema è che Valérie Solanas, se andiamo ad analizzare un attimo che tipo di relazione lei ha avuto con gli uomini che sono stati importanti nella sua vita, e abbiamo visto come si è con il padre e con il padrino, che probabilmente hanno abusato tutti e due di lei, e con Andy Warhol che gli ha rubato tutto quello che poteva rubarle, Geremia, che l'ha mandata allo sfacelo in quella talk show del sabato sera, a Giro Diaz, che gli ha rubato i diritti su Scum. Allora, facciamo questa piccola premessa. Allora, a questo punto diventa lecito domandarti che tipo di rapporto aveva con gli uomini. Ecco, nonostante che lei abbia scritto quello che è stato chiamato, è stato definito ancora il manifesto per l'eliminazione degli uomini, che poi lei ci mettesse o non ci mettesse i puntini, questa è un'altra cosa. E lei comunque nella prima frase di Scam dice che le donne intraprendenti, le donne dotate di senso civico, che non vogliono passare la vita ad annoiarsi in questo mondo in cui nulla è fatto per le donne, debbono rovesciare il governo, abolire il sistema monetario, istituire la completa automazione e distruggere il sesso maschile. Quindi non è che ci fa mistero di quello che pensa. È interessante però che colleghi il dominio maschile con il denaro, no? Il potere. Sì, ma il denaro che sta alla base di tutto, che noi, per noi oggi è l'unica indiscutibile realtà, ha preso il posto di ogni altro reale. Comunque, a parte questo, poi in realtà nella sua vita lei ha avuto dei rapporti anche importanti, anche fondanti, a volte anche, come dire, assolutamente di amicizia con degli uomini, e qui emergono, ma non è così difficile, cioè, lei con le donne, quello che ho capito è questo: lei stava bene, riusciva ad avere dei rapporti paritari con le persone che erano più o meno come lei, scam, cioè marginali, lei stava bene con i marginali, fossero essi uomini o donne, e non sopportava quelli che in qualche modo erano complici di quello che appariva come, lei non lo chiamava il sistema, ma insomma, che stavano all'interno, che, ecco, non lo sopportava. E in questo suo modo di essere anche molto diurto, incontrava più uomini disposti a dialogare con lei. E per esempio lei ha avuto questo rapporto quasi fraterno con Ben Moria, che era, faceva parte di un gruppo artistico anarchico armato, quindi non era l'unica che si muoveva nel mondo dell'arte con la rivoltella. Si chiamavano i Motherfuckers, giusto per darvi un'idea del tono, e lei aveva questo rapporto, erano molto amici, lui e lui, che la Brian Fay è riuscito a scovare, questo è scomparso dalla circolazione per 40 anni, si è fatto trovare da lei e ha detto no, ma noi, contrariamente a quanto ha detto, ha rappresentato Mary Harrow, non avevamo una relazione, però noi eravamo amici, io la stimavo, noi eravamo amici, come si fa a rappresentare al pubblico una relazione di amicizia come la nostra? Io capisco, lei l'ha fatta diventare una cosa sessuale, ma io la stimavo perché era una compagna di lotta, che lei lottava, diciamo, in modo suo, io a modo mio, ma... Poi c'era, ci sono degli episodi anche veramente, scusa, a livello episodico, ma interessante. Lei a un certo punto ha un amico che si chiama Geoffrey Leguia, del quale quando è in prigione parte dalla California dove abitava, viene, si trasferisce sulla costa est, ci rimane per 3-4 mesi, si trova un appartamento per andare a trovarla in carcere con grande frequenza, e quando la rilasciano su cauzione lui tira fuori $10,000 sull'unghia per farla uscire. Quindi voglio dire, era un rapporto importante. Cosa fa lei? Era troppo forte. Dice: dove hai preso questi $10,000? Sarai mica parte anche tu della mala. E da allora gli nega la sua fiducia. Cioè, nel momento in cui lui non le appare più, non era più feccia, come un marginale squattrinato, eccetera, eccetera, lei ritira la fiducia. E poi lei ha un compagno per 4 anni che si chiamava Louis Sviren, ed era un uomo assolutamente fuori dalla norma, un uomo non macio, un uomo indubbiamente la parte più femminile del loro rapporto, per dirlo in maniera un po' così. E comunque con lui ha avuto un rapporto anche di sostegno, di mutuo sostegno, molto libero, non sono stati quello che si intende normalmente per una coppia. E poi, ecco, volevo segnalarvi come lei ha suscitato l'interesse di ci sono stati degli uomini, cioè, forse perché per gli uomini, non so come dire, è al di sopra di ogni sospetto interessarsi di Solanas, comunque si sono interessati di lei, a parte Donnie Smith, che è questo bibliotecario che ha raccolto i documenti, ha fatto questo lavoro importante e molto tempestivo. A parte lo stesso Girodià, che lei chiamava affettuosamente Vile Rospo, e lui diceva: beh, no, ma era simpatica, io non l'avrei sposata, però era una donna in gamba, fuori di testa. E per esempio, l'esempio più recente di questi uomini è Roberto Tumminelli, docente di filosofia e storia del pensiero politico alla Statale di Milano, che nel 2018 pubblica un volume su Valéry dal titolo Neanche un attimo di gioia. Traducetelo in... si traduce in... io l'ho sentito dire, mai una gioia. Mai una gioia. Neanche un attimo di gioia. È il titolo attribuito a questo... in cui... vabbè, forse io, diciamo caritatevolmente, penso che l'avesse scritto prima, perché non prende atto che nel frattempo è uscita questa biografia e quindi è molto incompleto, molto parziale. Ma soprattutto la sua tesi è cioè, si stanno sabotando, eh? Sì, stanno accompagnando. La sua tesi è che Valerie Solanas, geniale, eccetera, era così, aveva ragione, poverina, perché era vittima, appunto, era un po' la tesi, cioè... si deve capirla, le diamo le giustificazioni perché è stata sempre vittima, e la cosa che meno emerge dagli scritti di Valerie è l'essere vittima, cioè proprio lui non lo diresti mai, cioè lei si pone come al centro del mondo, io sono qui, sono forte, sono... quindi che non avesse mai provato una gioia, questa biografia ce lo smentisce. Era una donna che sapeva ridere, che amava la musica, che si divertiva, perché poi chi legge i suoi scritti lo capisce che lei si divertiva, perché non si può scrivere una cosa piena di humor senza divertirsi, non è possibile, non è possibile, perché c'è anche molto, molto humor in quello che lei scrive. Quindi ho fatto una breve panoramica, ma comunque è interessante questa cosa dei suoi rapporti con gli uomini, perché io ho capito che non era tanto il discorso uomini e donne, era il discorso della marginalità. Coloro che si stavano in una certa posizione erano quelli con cui lei si poteva rapportare. C'è un'ultima cosa che, tre secondi, che mi interessa sottolineare, è che probabilmente se Scam l'avesse scritto Valerio, sarebbe stato considerato un'opera d'arte o, al contrario, una manifestazione di una persona un po' eccentrica, no? E invece l'ha scritto Valerie. E questo è stato il problema più grande, sì. Perché lei ha osato sfidarla. Sì, d'altra parte, se noi mettessimo insieme tutto il materiale di esecrazione, vilipendio e così... che è stato fatto sulle donne, non faremo un volume, faremo due o tre biblioteche. Sì, infatti. Quindi non... A partire da Sant'Agostino, sì. Che diceva che il sangue delle donne bruciava il ferro, squagliava il ferro. Fosse vero. Sì, penso di sì, cioè certo, lei l'aveva molto presente, fin da quando a 15-17 anni nel giornalino del college scrive le sue lettere in cui combatte i luoghi comuni dell'epoca, i luoghi comuni sessisti dell'epoca, siamo negli anni 50, quindi certo. Ci andavano pesante con certe catalogazioni sessiste. Domande? Tantan, va bene, ci accompagneranno nell'uscita allora. Va bene, io ringrazio di essere state qui. Buona lettura a tutte, è un libro eccezionale.